Bentornati a Dedicato, yeah! Ciao Mascotte! Wow! Seconda puntata della terza stagione, oh Mascotte, terza! Mi sono appena svegliata! Mascotte, a quest'ora, ma non si può, ma non è vero, ma non dire così! Ma sì, senti, mi sono addormentata sulla poltrona! Cioè, ti sei svegliata, poi ti sei riaddormentata, che ti credi di essere in vacanza? Magari le vacanze sono finite! È un peccato! Bella mia! Vabbè, tanto sono qui a registrare, non sono mica a scuola! Siamo ormai a ottobre! Buonanotte! Senta, Mascotte, qui in studio abbiamo problemi con la tecnologia, che è successo? Non faccia suoni, Mascotte, si sente che sono finti, Mascotte, la smetta! Abbiamo dei bambini qua che girano per lo studio, io non ho capito. Cosa deve fare? Devi prendere questo! Il nero? No! Ma perché qui in studio la tecnologia non funziona più? La tecnologia non funziona più. Io l'ho fatto! Vieni a vedere! Fammi vedere! Appala. Facciamo ripartire la tecnologia! Che cosa? L'elicottero! Ah, ok, però l'elicottero non ci serve adesso. Sì, non ci serve adesso. Elicottero! Carico! È quello, perfetto. È andato via però, perché non ci serve. Cioè, scusi, Mascotte, secondo lei a cosa serve l'elicottero in studio? Abbiamo un cavo nero che non va e non fa... Un pinnarello nero che non funziona. No, era un cavo. Mascotte, la tecnologia, che c'entra il pennarello adesso? Ma anche lei, insomma, mi confondete oggi, tutti sti bambini. Cos'è l'elicottero in studio? Questi bambini sono fissati con gli elicotteri e dicono sempre: guarda un elicottero, anche se siamo in una stanza chiusa. Ma no, ma c'era l'elicottero, perché ho sentito il rumore. Vabbè, Mascotte, senta, facciamo... Buonanotte. Ma come buonanotte? Facciamo una cosa. Senta, Mascotte, non russi, per cortesia, siamo in diretta. Però, senta, Mascotte, la smetta. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played church bells rang. Now he's gone, I don't know why, and till this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down, bang, bang, I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang, my baby shot me down. Bang Bang, grande pezzo della colonna sonora di Kill Bill. E quindi, scusate un attimo, cosa sta succedendo qua? Allora, mandiamo questa intervista, facciamo così, risolviamo i nostri problemi con la tecnologia per i fatti nostri, non coinvolgiamo tutta Radio Città Fujiko in questo problema. E i suoi momenti di sonno cortesemente se li veda lei, che gli ascoltatori non ne hanno voglia. Io manderei subito quindi questa fantastica intervista che è andata in onda il 1° di agosto, sempre su Radio Città Fujiko ovviamente, per il progetto ReArt, che è un progetto fantastico che ha organizzato la nostra radio contro il riarmo e contro le guerre e a favore della pace ovviamente. Dedicato, ha partecipato a questo progetto proprio attivamente, perché abbiamo creato un contributo audio con le voci di tutti noi, ma sono anche stata intervistata io, Mascotte. Lei non c'era in quel momento, non c'era perché sì, chissà perché dove era. Dormivo. Eh no, dormiva e dai, no, era in vacanza Mascotte, credo, perché era il 1° agosto, quindi insomma poteva anche essere in montagna, al mare. Ecco, continua a sbadigliare. Mandiamo questa fantastica intervista che ci hanno fatto e ascoltiamo insieme questo contributo che dedicato ha dato per ReArt. Buonanotte. Allora, buongiorno e bentornati in studio a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Oggi siamo con Erika, a.k.a. Eki, per una delle artiste che partecipa al nostro progetto ReArt, Artisti Uniti contro il Riarmo e contro la Guerra, e che è qua per parlare dell'opera d'arte, della canzone, della performance che ci ha presentato. Infatti vorrei parlare proprio di questo e ti domando di che cosa parla la canzone, non la performance che hai voluto presentarci. Ciao a tutti, io sono Erika, sono felicissima di essere qui a parlare di questo, perché ti rispondo immediatamente. La nostra performance parla ovviamente di uno alla guerra in coro. Lo staff di Dedicato ha voluto dedicare a ReArt questa performance, dove ognuno di noi, dai più piccoli, quindi parliamo di bambini, fino agli adulti e agli anziani anche, perché abbiamo avuto anche voci di 77-78 anni, dice il suo no alla guerra tutti insieme, quindi con diverse motivazioni, con diverse espressioni. Chi ha deciso di cantare, perché abbiamo avuto ospiti anche alcuni ragazzi dello staff di Dedicato, che sono il gruppo degli Ater, ed è un gruppo giovanissimo di adolescenti bolognesi che si è voluto esprimere attraverso la sua musica. Poi abbiamo avuto anche personaggi veramente vicini a noi, come la Mascotte, che è la nostra tuttofare, diciamo, di Dedicato. È stata un po' un'esperienza, diciamo, molto collettiva, dove abbiamo voluto prendere queste voci e metterle insieme, quindi in forma, diciamo, corale ma individuale, quindi come piace a Dedicato, dove ognuno può esprimere il suo punto di vista in maniera totalmente libera, diciamo. Sento che un pochino mi hai anche un po' già risposto, però volevo approfondire anche questo aspetto qui, appunto, siccome ci sono anche dentro molte persone di tutte le età, immagino anche di tutte le provenienze. Com'è nata? Cosa si ispira anche poi il sound? Dove trae le sue fondamenta? Il sound di questo brano, l'accompagnamento musicale, è un brano che è il love theme di una colonna sonora di uno spettacolo teatrale che ho scritto io insieme ad Alessandro Meacci, che è un giovane compositore romano, e si intitola Mai giorni più Beijing, ed è uno spettacolo che parla di una storia d'amore, perduta e tradita dalla storia, perché è la storia d'amore di Marco Polo con la sua moglie Hao Dong, che era la sua prima moglie cinese. E abbiamo pensato di usare questa colonna sonora un po' perché è molto scritta originale e molto molto interessante a livello proprio musicale, e poi perché le storie d'amore di questo tipo, come Romeo e Giulietta, come Marco Polo e Ao Dong, come tante altre, sono una piccola guerra che viene vissuta individualmente dalle persone, quindi richiamava sempre l'argomento della guerra, diciamo, questo brano dal nostro punto di vista. Ecco, ci sono stati anche a livello musicale all'interno della nostra performance appunto di Afer, che hanno proposto invece Oltre il ponte, che è un brano storico conosciuto un po' da tutti e che l'hanno reinterpretato a modo loro, quindi c'è stata un po' questa commistione anche musicale. Immagino che poi questa commistione musicale abbia portato anche a una commistione di idee, come ne abbiamo parlato anche prima, e quindi ti chiedo, anche parlando anche dello spettacolo, raccontarci il messaggio dello spettacolo, dici anche se e dove lo possiamo vedere, ma quindi ti domando qual è poi il messaggio che siete andati a nascondere, anche non troppo velatamente, all'interno della canzone. Qual era proprio l'emozione che volevate suscitare nelle persone? Lo spettacolo, ti do subito l'informazione, è in tour, è in giro per l'Italia. Daremo sicuramente l'informazione all'interno della trasmissione del teatro quando sarà in zona Bologna e limitrofi, quindi vi avviseremo assolutamente quando saremo in zona. E invece, per quanto riguarda quello che volevamo suscitare, ecco, io quando ho spiegato allo staff di Dedicato qual era l'idea di Radio Città Fugico con Riart, ho spiegato proprio in due parole e ho detto no alla guerra, e poi ho chiesto perché, qual è il tuo punto di vista, che cosa vorresti dire al mondo per sensibilizzare le persone sul no alla guerra, perché dire evviva la pace è una cosa a virgolette facile, che tutti quanti noi siamo in grado di dire, perché la pace è un concetto che nessuno può negare, mentre la guerra purtroppo viene vista da vari punti di vista. Quando un bambino vede delle guerre dice è un'ingiustizia, ma perché? E allora ognuno di loro ha espresso il suo modo di vedere la guerra e di non volerla. Questo era quello che volevamo suscitare e quello che volevamo esprimere. Quindi qualcuno ha parlato con la voce dei partigiani, qualcuno invece ha deciso di parlare con la voce della sua esperienza, magari vissuta in famiglia, perché le persone più anziane hanno avuto i genitori che hanno vissuto la guerra, e qualcuno, come i più piccoli invece, ha semplicemente guardato con i suoi occhi questa ingiustizia enorme che succede nel mondo e in più parti del mondo, e tutti hanno voluto dire il loro punto di vista su il no alla guerra. È stato proprio molto, diciamo, semplice spiegarlo, e è un'emozione enorme poi sentire le loro voci e metterle insieme, perché tutte le generazioni e, come dicevi tu, anche le varie provenienze hanno suscitato emozioni diverse. Sì, l'emozione è sempre qualcosa di veramente importante. Proprio riguardo al discorso del messaggio, dell'emozione anche, ti faccio l'ultima domanda, che è molto semplice in realtà, ovvero ti chiedo di sfruttare anche questa occasione di poter parlare a tutti i nostri radioascoltatori per poter mandare, volendo, il messaggio che più preferisci, anche riguardo gli argomenti dell'opera che ci hai presentato. Fare appunto un appello nel qui ed ora. Allora, qui ed ora mi viene in mente una parola che riguarda ovviamente il no alla guerra e quindi la nostra performance per Riart, e qui ed ora la parola è assolutamente Palestina. Non penso forse di dover aggiungere nient'altro, ma spero che veramente si fermi il genocidio, e non so, veramente su questo argomento mi batte il cuore e scendono le lacrime, quindi posso soltanto dire che io e lo staff di Dedicato speriamo veramente che in fretta finisca tutto questo, perché sono troppi anni che va avanti una situazione che non è più gestibile e che l'essere umano non può più sostenere, quindi io spero che finisca in fretta, e il nostro cuore è in Palestina con i palestinesi. Anche il cuore di Radio Città Fugico, ovviamente noi stiamo organizzando Riart perché siamo fortemente contrari ad ogni forma di guerra, siamo contrari al riarmo. Proprio su questo vi lasciamo sulle note bellissime di questo progetto, ovvero il Love Team di My Journey to Beijing, di appunto Erika Eki, ed eccolo qui. I valori di chi si batte per la pace, per la solidarietà, per la concordia, per la cooperazione, sono così superiori alle cialtronaggini loro, tra uno che ha dei valori che li considera il consumo e l'altro che sente il bisogno di valere internamente. Ma lo sai che differenza c'è? Non c'è verso di perdere, perché gli è troppo grossa questa superiorità. Un mondo che non riesce a capire che se tu non levi le ingiustizie, le guerre si moltiplicheranno perché sono quelle che le producono. Se tu non arrivi a capire questo, e bisogna che vinca chi l'ha capito. Parole di Silvano Sarti. Sono contrario alla guerra perché è un brutto gioco di potere, meschino, arrogante, cattivo, eppure facile, fin troppo facile a volte. La bellezza ci circonda, ci sono i profumi dei fiori, ci sono i dialoghi con le persone che non la pensano come te, ma ci si arriva sempre a un punto d'incontro, no alla guerra perché fa male a noi, fa male all'ambiente. La guerra è un indice di violenza. In natura la violenza è funzionale alla sopravvivenza della vita, della razza. Quindi la guerra invece è funzionale ad un atto speculativo, vuole conquistare qualche cosa o a livello di potere o a livello di ricchezze. È una cosa tutta umana, tutta della nostra società. Sono di una generazione che è nata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, sono stata cresciuta da tutti quelli che l'hanno vissuta nel dire che era una grandissima cosa da non fare. Perché due uomini possono arare e un uomo da solo non ci riesce. Naturalmente c'è bisogno di un uomo che tiri l'aratro e dell'altro che lo... però questo è un dettaglio. La violenza è da condannare sempre, comunque in qualunque modo, perché l'arma migliore che ha l'uomo è il cervello e bisogna saperlo far funzionare affinché nessuno si faccia male. Un gioco fatto per soldi e si perde sempre. Perché la guerra distrugge le famiglie, distrugge i bambini che hanno il diritto di studiare, non hanno più una casa e hanno il diritto di avere una scuola, non possono più mangiare magari. Io invece sono dalla parte della natura, quindi la violenza che accetto è solamente quella legata allo spirito di sopravvivenza. Un gioco al massacro creato da persone potenti per avere ancora più potere e più denaro. E stare sotto le bombe per un bambino anche magari di 2 anni è una cosa bruttissima. Magari perderci i tuoi genitori, essere un bambino molto piccolo e non sapere come fare è una cosa orribile. Resisto e quindi esisto. No war, no war. Copri fuoco la truppa tedesca. La città dominava sia un bronzo. Chi non vuole chinare la testa con in fretta la strada dei monti. La guerra promette vittorie, ma consegna solo silenzi speziati, vite interrotte e un'umanità che si dimentica di essere tale. La guerra la fanno i ricchi e poi ci muoiono i poveri. Credo che la guerra sia futile, perché può solo che indurre e alimentare a ulteriori scontri a livello militare che però non portano a delle risoluzioni di problemi tra stati. La guerra non mi piace! No, alla guerra! No, alla guerra! No, alla guerra! No, alla guerra! No, alla guerra! No, alla guerra! No, alla guerra! No, alla guerra, grazie! No, alla guerra! No, guerra, no, violenza! Lo staff di Dedicato ripudia la guerra, tutti insieme diciamo no, perché dopo secoli di violenze e soprusi l'essere umano ha diritto di dire no. E siamo in tanti a dirlo, purtroppo vincono sempre quelli che dicono sì e hanno il potere di farlo, ma noi continuiamo e perseveriamo a dire no. Tutti, grandi e piccoli dello staff di Dedicato, siamo convinti del nostro no. De vibes sorties, pour moi un enclos est fait pour essayer d'en sortir. Alors je me barre, besoin d'aller respirer autre part. Ici on veut me dresser, me faire avancer au pas. Moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura. Les flics au cul, je les entends dire la petite en aura. Je me barre, tcha tcha.